24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il fallimento del vertice sul bilancio e poi il monito di Draghi sulla BCE che ha evitato scenari disastrosi e quindi gli sforzi dell'Unione per portare più donne nella ricerca. In apertura dunque andiamo a Bruxelles. Fallisce il vertice sul bilancio, fallisce per le forti divergenze interne, ammette il presidente della Commissione José Manuel Barroso, che rinvia tutto all'inizio del 2013. È terminato con un nulla di fatto il vertice europeo, tutto dedicato al prossimo bilancio comunitario 2014-2020. I 27 paesi dell'Unione hanno preferito interrompere le trattative e rinviare i negoziati all'inizio dell'anno prossimo. Non è corretto parlare di fallimento. I governi hanno scelto di prendere tempo per opportunità politica. Troppi aspetti, anche tecnici, hanno diviso i 27 stati membri dell'Unione in queste ore, complicando i negoziati. Il confronto è stato tra i paesi che vogliono ridurre il bilancio comunitario perché sia in linea con l'austerità nazionale e i paesi che vogliono difendere generosi capitoli di spesa nell'agricoltura e nella coesione. Nei due campi però non sono mancate divisioni e differenze. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. C'era una tendenza al ribasso, ci siamo opposti, rivela il premier italiano Mario Monti. Apprezziamo l'impegno profuso dal Presidente, soprattutto per quanto concerne la limitazione dei tagli al bilancio nel suo complesso, a fronte delle richieste di riduzione massiccia, come dicevo, rispetto alla prima proposta della Commissione. L'Italia è oggi il secondo contribuente alle varie forme di sconto attualmente in vigore, che sono gli sconti a favore in primis del Regno Unito, ma anche in misura minore a favore di altri paesi, la Germania, la Svezia, l'Olanda e l'Austria. Abbiamo già chiarito che l'attuale sistema dei rebates, degli sconti, è iniquo, anche perché va a beneficio di paesi più prosperi dell'Italia. Nella crisi dell'Eurozona la Banca Centrale Europea ha evitato uno scenario disastroso, ne è convinto il presidente della BCE Mario Draghi, che da Francoforte ha denunciato come i paesi ad alto rischio siano stati più penalizzati dalle borse. Sentiamo Alessandro Merli. Draghi appunto ha guardato a quello che è successo nell'ultimo anno, quando la BCE è dovuta intervenire ripetutamente per salvare l'Eurozona, ma ha anche guardato avanti al futuro dell'unione monetaria, che passa inevitabilmente attraverso un'unione bancaria o, come preferisce chiamarla Draghi, un'unione finanziaria, e questa vorrà dire sottoporre tutte le banche dell'Unione Europea, oltre 6.000, alla supervisione della Banca Centrale Europea, anche se naturalmente in collaborazione con le banche centrali nazionali, e per cercare di interrompere quella frammentazione del sistema finanziario, che è quello che più sta danneggiando in questo momento la zona euro. Il sistema, ha detto Draghi, va costruito attorno alla BCE, questa è l'unica soluzione pragmatica. E andiamo a vedere quali sono stati gli effetti proprio sulle piazze europee. Acquisti sul settore industriale a Piazza Affari in una seduta di rialzo grazie ai segnali positivi arrivati dalla Germania. Il PIL del terzo trimestre è cresciuto dello 0,2% rispetto a quello precedente e la fiducia delle imprese tedesche è migliorata oltre le previsioni a novembre, fattori che hanno spinto in alto gli indici europei, con il FTSE MIB che ha guadagnato lo 0,5%. A guidare il paniere è stata Buzzi Unicem, il gruppo cementiero che ha raccolto negli ultimi giorni buoni giudizi dalle case d'affari, ha inoltre incrementato al 96,6% la partecipazione nella controllata tedesca Dieckhoff. Sotto i riflettori anche A2A più 1,97%, che ha collocato un bond a 750 milioni ricevendo richieste per circa 4,5 miliardi di euro. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Bocciato dal Parlamento europeo ma promosso dai governi, dal prossimo 15 dicembre il lussemburghese Yves Mersch entrerà nel board della BCE, che chiude così alle quote rosa. Una nomina per un board della BCE tutto al maschile, che ora divide e per alcuni allarga il solco tra due istituzioni europee, il Consiglio e il Parlamento. La prima giornata del vertice dei 27 per definire il bilancio europeo 2014-2020 si è chiusa con una sospensione subito dopo il via libera dato alla nomina del lussemburghese Yves Mersch nel board della BCE, nonostante la protesta del Parlamento europeo per avere almeno una donna nel Consiglio esecutivo. Non l'hanno bloccata né la Spagna, l'unica a votare contro dopo aver stoppato inizio novembre la procedura scritta per la nomina di Mersch, né appunto il veto dell'Europarlamento, favorevole a una quota rosa. Certo, si tratta solo di un parere consultivo, non vincolante, supportato però da un voto. A ottobre, infatti, un'assemblea plenaria del Parlamento europeo aveva respinto la candidatura di Mersch nel board della BCE con 325 no, 300 sì e 49 astenuti. L'assemblea aveva così dato il suo sostegno alla posizione della Commissione economico-finanziaria, la cui presidente Sharon Bowles ha parlato di una nomina senza mandato democratico e di assenza di uguaglianza di genere nella BCE e nelle altre istituzioni europee. E ha aggiunto, i cittadini faranno capire dalle urne che cosa ne pensano. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Germania la Camera dei Länder ha bocciato l'accordo fiscale con la Svizzera. Clamoroso no del Bundesrat, la Camera del Länder tedesca, che ha bocciato oggi l'accordo fiscale con la Svizzera a un passo dalla sua ratificazione. L'accordo riguarda i conti dei cittadini tedeschi non dichiarati nelle banche svizzere. Se non sarà deciso il ricorso a un arbitraggio per trovare una soluzione, l'accordo che doveva entrare in vigore dal 1 gennaio 2013 decadrà. La Camera Alta aveva già approvato l'intesa in ottobre e martedì il ministro delle Finanze, Schauble, aveva rivolto un appello ai partiti dell'opposizione che hanno la maggioranza al Bundesrat perché dessero via libera all'intesa. Socialdemocratici e Verdi, però, avevano già confermato le loro riserve, secondo le quali l'accordo tratta troppo generosamente gli evasori fiscali. L'intesa prevede il pagamento di un'imposta retroattiva che va dal 21 al 41% sui fondi depositati in Svizzera dai cittadini tedeschi e per il futuro l'applicazione dell'aliquota valida in Germania del 26%. Trattati simili sono stati già conclusi da Berna con la Gran Bretagna e l'Austria. Altri sono in via definizione con la Grecia e anche l'Italia, dalla quale arriva un no comment. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo ora in Catalogna, che domenica torna al voto e l'Europa trattiene il fiato. Ci sarà a breve una nuova bandiera nazionale in Europa? Domenica le elezioni regionali catalane potrebbero innescare un processo dagli esiti assolutamente imprevedibili al punto da non escludere una vera e propria secessione dal resto della Spagna. La Catalogna vota per il nuovo Parlamento, dove il partito storicamente più rappresentativo dell'identità catalana, i conservatori di Convergència i Unió, chiedono ai 7 milioni e mezzo di abitanti la maggioranza assoluta per avviare un processo secessionista già a partire da gennaio. Così ha promesso il leader Artur Mas con la benedizione del padre nobile catalano Jordi Pujol, per 23 anni presidente della comunità autonoma. I sondaggi sembrano allontanare l'ipotesi di una maggioranza assoluta per Convergència i Unió, che col 37% dei consensi si fermerebbe a una manciata di deputati dell'obiettivo. Così, per dare vita al disegno secessionista, potrebbero arrivare in soccorso i voti di Esquerra Repubblicana, partito molto lontano ideologicamente ma da decenni votato all'indipendenza da Madrid. Probabile il crollo infine dei socialisti, per anni l'unica forza centralista in grado di contrastare gli schieramenti regionali. La crisi economica ha accelerato un processo di separazione latente in una regione che nell'era post-franchista ha recuperato lingue, identità e tradizioni proprie. Oltre due mesi fa 1,5 milioni di persone hanno invaso Barcellona chiedendo l'indipendenza. Madrid sta alla finestra, allarmata. L'Europa non sa che pesci prendere. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La ricerca in Europa non è un mestiere per donne, sono sempre troppo poche quelle che scelgono questa carriera. E allora, dopo la decisione sulle quote rosa nei consigli di amministrazione, l'Unione Europea avvia un percorso di sensibilizzazione anche per la scienza. Obiettivo: portare più ricercatrici, aumentando le spese per la ricerca dal 2 al 3% del PIL entro il 2021. Sul sito della Commissione tutti i progetti ci illustra Roberta Pattono della Direzione Ricerca ed innovazione della Commissione. Un'altra serie di azioni concrete sono state fatte e ce ne saranno ancora. Ad esempio, la Commissione europea finanzia delle azioni di formazione, danno una vera e propria cassetta degli attrezzi a quanti lavorano in questo campo per poter facilitare l'ingresso e la progressione delle donne nel campo della ricerca, PRAGES, e un successivo progetto STAGES. Il progetto PRAGES in modo particolare ha permesso di ottenere una banca dati che contiene 200 esempi circa di soluzioni a problemi frequenti e delle linee guida che consentono agli organismi, alle università, a quanti fanno ricerca, di creare un ambiente favorevole alle ricercatrici. Esiste un problema culturale che ho trovato sia nei paesi mediterranei che nel nord Europa, ma io non ho mai avuto ostacoli, commenta Maria Xantudaki, direttore del Centro di Ricerca per l'Educazione Informale. La prima è che le scienze sono delle materie che fanno un pochino paura, tutti dalla scuola, e purtroppo qui incide tantissimo il modello di istruzione. Di conseguenza, per qualche ragione, potrei dire forse culturale, gli uomini, i ragazzi sono ritenuti quelli più bravi nelle scienze, invece le ragazze più brave nelle materie umanistiche. 24 ore in Europa termina qui, un saluto da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.